qualcuno cerca di tenersi aggiornato, guarda la televisione, ascolta la radio, legge i giornali e ha l'impressione che ci sia qualcosa che non va. Si sforza di capire che cosa, riguarda, riascolta, rilegge, magari va a cercarsi i giornali vecchi nel cestino della carta da riciclare e alla fine capisce che cosa lo rendeva perplesso. Sui giornali italiani non ci sono più i curdi. Sì, i curdi, quelli che il manifesto scriveva con la K, non si capiva bene se il nome della correttezza politica o di quella filologica, che gli altri scrivevano con la C, quelli che sembravano sul punto di invadere l'Italia, approfittando della disattenzione della Guardia Costiera e dell'eccessiva liberalità delle norme di Schengen, poi sarebbero divagati in Europa, no? In un'Europa che non avrebbe retto al colpo e che si sarebbe rivalsa inevitabilmente su di noi. Vi ricordate le prime pagine, gli articoli, gli editoriali allarmati, le vignette più o meno ignobili, i servizi, le interviste sul pericolo curdo? Vi ricordate le dichiarazioni di sbarramento del ministro degli interni del libero stato di Baviera, che non era ben chiaro cosa c'entrasse, ma per contare contava? Vi ricordate delle navi che aspettavano all'ancora in Grecia, in Turchia, in Siria o altrove, pronte a traghettare sulle nostre coste migliaia di fuggitivi, degli sforzi delle comunità pugliesi per organizzare in proprio un'accoglienza che avrebbe dovuto organizzare qualcun altro, delle polemiche sull'opportunità di considerarli profughi politici o immigrati clandestini? E dove saranno mai finiti adesso tutti quei curdi? Saranno svaniti. Saranno svaniti come i fiori in quella vecchia canzone pacifista di John Baez. O forse non esistono più perché non sono mai esistiti. Non so voi, ma io continuo ad avere il sospetto che i curdi non siano esattamente scomparsi, che siano ancora lì, con tutti i loro problemi e tutta la loro miseria, vittime forse non completamente innocenti, ma sempre vittime di chi domina il loro paese e di una diplomazia internazionale che da 80 anni vi usa solo come merce di scambio, ostaggi sacrificabili del Trattato di Losanna o di quelli di Yalta, capri espiatori della questione d'Oriente e della Guerra Fredda. E sono ancora lì, che premono le nostre frontiere, non perché siano spinti dal desiderio incolcibile di entrare a far parte di questa nostra Italia olivista e scalcagnata, che sarebbe soltanto masochismo, ma perché sono una delle tante avanguardie dei poveri affamati di tutto il mondo che tentano a mani nude l'assalto a quella scandalosa fortezza di opulenza e di egoismo che è il nostro Occidente. Sono ancora lì, ma noi non ne parliamo più. In meno di 2 settimane, in 3 settimane al massimo, hanno smesso di fare notizia. Sono stati scacciati dai titoli di testa dei nostri giornali da ondate successive di notizie più interessanti. Anche la stampa italiana, non solo quella, ma quella italiana in particolare, va inesorabilmente a ondate. E dopo i curdi ci ha afflitto a lungo con la promessa di farci diventare tutti miliardari col Super Enalotto e il Totogol. Poi si è dedicata con entusiasmo alle polemiche sulla cura di Bella. Poi ha coperto con uno scrupolo sicuramente innegabile la visita del Papa a Cuba. E infine si è buttata con avidità sulle affascinanti storie di sesso del presidente Clinton. I giornali di stamattina non li ho ancora letti, ma senz'altro qualcosa di nuovo avranno inventato. E guardate che io non voglio fare degli inutili moralismi giornalistici, non c'è notizia abbastanza futile da non meritare di essere riportata sulla stampa, e tutti quegli argomenti hanno il loro interesse pari a quello rappresentato dalla tragedia dei curdi. La visita di Giovanni Paolo II a Cuba è un evento di rilievo per chi si interessa di queste cose. Il fatto che sia così diffuso il sogno collettivo di diventare ricchi grazie a una lotteria, nonostante gli spiccati caratteri di ladrocinio che il meccanismo di quella lotteria mette in evidenza, ce la dice lunga sul sistema di valori che vige nel paese, sul cinismo di chi approfitta delle illusioni popolari per fare cassa. Le speranze e le ripulse suscitate da una proposta che promette di trattare chi è affetto da una malattia sempre più diffusa in un modo un po' più consono alla sua dignità di essere umano, sia o non sia quella proposta fondata sul piano terapeutico, meritano certamente ad essere registrate dai media, anche se fa un po' impressione vedere quanto poco si tiene conto nel fare certi titoli della disperazione di chi soffre. Persino le eventuali intemperanze sessuali di Clinton, delle quali in sé nulla potrebbe importarci di meno, e le reazioni che hanno suscitato negli Stati Uniti meritano di essere riportate con scrupolo e attentamente valutate, se non altro per farci riflettere sull'ipocrisia morale della classe dirigente di quel paese e sugli abissi di futilità a cui può arrivare un sistema politico basato sulla personalizzazione del leader. che è poi quello che zelantemente vogliono imporre anche noi in nome del maggioritario, della governabilità, della bicamerale e del referendum. Ma l'importanza intrinseca di tutti questi argomenti non significa che quello che usiamo noi sia proprio un modo giusto per trattarli, eh? Sono argomenti di importanza diversa, andrebbero contestualizzati e gerarchizzati secondo dei criteri che lo sfruttamento intensivo da prima pagina si guarda bene dal fornirci. E poi, un sistema informativo che un giorno ci parla solo di curdi o di albanesi, se qualcuno si ricorda ancora che cosa sia o dove sia l'Albania, e il giorno dopo ci parla solo di Dibella, e poi nasconde Dibella, i curdi e gli albanesi dietro le fornicazioni orali del presidente della prima potenza mondiale, non informa affatto. Crea solo del rumore, destinato a essere assorbito da un altro rumore, come quello delle onde della risacca, e chi può distinguere un'onda dall'altra? E chi si può rendere conto nel succedersi di queste ondate disinformative dei vari problemi, con tutte le loro peculiarità e la necessità dei loro difficili distinguo? Se il lettore o l'ascoltatore, dopo qualche settimana di trattamento, finisce col credere che la cura di Bella sia una lotteria cubana e che Clinton in Vaticano sia solito giacersi con i profughi curdi, non è certamente colpa sua.